Io sono Mozart. Io sono Mozart. Ti decapito su una traccia se non hai capito questa song, ora recca e fa breccia. Sì sì, sono solo un yes yes pro, ma un bel yes yes pro. Gioco tipo business class nel mio Ramadan, c'è tutta una questione sacra. Non devo dimagrire per fare il modello. Ste ragazze avranno pensato che lo faccio per quello. Io sono libero, cronico, sulla base atomico, multicellulare il mio stomaco. Io vago per l'immenso indefinito, rappo attraverso 300 bocche di rapper. Sono l'incognita, il tentativo di resuscitare di Dario è alquanto equo quanto quello di uno che vuole spaccare. Io sono Mozart. Io sono Mozart. Io sono Mozart. Io sono Mozart. Snellisco manco Eminem alla fine del disco. Slim Shady su una base mi vedi, John Cena, you can see me now. Ora non mi vedi più, bitch, I'm a clown. I destroy your life, bitch, I'm a destiny. I'm a destiny, I'm a clown, bitch, I'm a broken your destiny. Cause I'm a just in destiny, in destiny. I'm a clown, rich, bitch, I'm in destiny. I'm a clown, bitch, rich, destiny. I'm a Mozart. I am a Mozart. Even if I'm not, even if I'm not Mozart. Semplicemente stupendo, uscendo da sto te correndo. Rimango qui, horror show of the world, fino al final destiny. Come in final destination, sentore di morte. Mentre questa traccia si dissolve, si dissolve, si dissolve.